Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti di nuovo su Liberi Dentro Eduradio TV. Oggi è martedì 22 febbraio, riprendiamo le nostre notizie quotidiane, ma non prima di salutare la nostra Antonella Cortese qui con noi. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina cara, buongiorno a tutte e a tutti. Guarda, la notizia di oggi riguarda sempre le carceri e infatti titola sul giornale Il Dubbio, Damiano Liprandi, carceri sovraffollate, ecco la ricetta di Fratelli d'Italia, costruirne di più e rispedire indietro i migranti. Ecco, io la leggo perché naturalmente anche nel panorama della diversità di opinioni che ci può essere sul carcere, magari qualcuno è d'accordo, non lo so, me lo scriverete. Quindi altro che misure deflattive, Fratelli d'Italia presenta un piano di nuova edilizia penitenziaria e propone di far scontare le pene ai detenuti migranti nei loro paesi di origine. Quindi per Fratelli d'Italia la soluzione al sovraffollamento, in poche parole, è una sola: costruire più carceri. È una cosa che abbiamo sentito anche in passato, tra l'altro, non è nuova. Sì, infatti Caterina, non è per niente nuova, perché ogni tanto viene fuori questa proposta. E ieri eravamo proprio in tema di sovraffollamento, abbiamo parlato di questo, no? Ed è curiosa che arrivi questa proposta in questo momento, però io non ho capito come proporrebbero farla, mettere in atto questa cosa. Guarda, sul come, la proposta sarebbe di farlo attraverso un nuovo piano di edilizia penitenziaria, a cui però si aggiunge un'altra proposta, che era quella che vi dicevo prima, cioè far scontare ai detenuti immigrati le pene nei propri paesi di origine. Il tutto, scrive il giornalista del Dubbio Aliprandi, condito anche da considerazioni dal sapore un po' etico e anche moralista, ovvero, virgolettato, leggo, perché di certo ne si può trascurare che i detenuti magrebini sono persone poco avvezze all'ordine, alla disciplina e al rispetto della divisa. Quindi questa è l'opinione di Fratelli d'Italia, del partito, e quindi la proposta è stata presentata, come ha spiegato anche il capogruppo della Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, durante un convegno al Senato intitolato Report e Carceri. Caterina, a questo punto io ti chiederei quali sono le posizioni di Fratelli d'Italia sul carcere? Guarda, le posizioni sono variegate. Intanto la prima, come ha dichiarato sempre Lollobrigida, è la certezza della pena, ovvero Fratelli d'Italia non è per fare sconti, loro sono contrari alle pene alternative che secondo loro rappresentano una elusione delle stesse pene da scontare. Poi sul sovraffollamento ritengono che vadano costruite nuove carceri, così come va reclutato nuovo personale penitenziario. E è poi stata presentata una risoluzione per caricare sugli stati il costo dei detenuti stranieri, detenuti in Italia, che sono circa 20.000 su una popolazione totale circa di 56.000 detenuti, e quindi non sono a favore di soluzioni minimali, ma per interventi concreti, dicono loro, che vadano a incidere sul sistema carcerario italiano. La prima cosa che mi viene in mente è che considerare le pene alternative come, diciamo, un alleggerimento o comunque un favore che si fa al detenuto, in realtà è un'interpretazione un po', diciamo, particolare, perché non si sconta niente a nessuno, semplicemente si opera in un altro modo, in un modo che poi possa portare dei risultati. Però, tornando al discorso della conservazione, dello stato di conservazione delle strutture, c'è anche questo problema, è anche lo stato di abbandono, perché per anni non c'è stata affatto manutenzione, oppure anche ai difetti strutturali che hanno le strutture che creano problemi. Su questi specifici casi, che cosa propongono? Sì, esatto, che poi sono problemi che ricadono sempre sulla garanzia di sicurezza e dignità, come ha detto proprio il presidente Mattarella nella notizia che vi riportavo ieri. Comunque, Fratelli d'Italia avrebbe teorizzato dei suggerimenti che vanno in questa direzione. La richiesta, per esempio, di body web per garantire le telecamere, per garantire più sicurezza, e le modifiche anche alla forma della libertà anticipata. Questo sempre per il discorso di non fare sconti, di pena, eccetera, eccetera. E ancora, non tanto mettere a posto le strutture, ma crearne di nuove, quindi non ci sarebbe un discorso di ripristino e ristrutturazione, ma creare nuovi padiglioni, e soprattutto puntano molto su fornire attrezzature, quali caschi, scudi e sfollagente, che io ho scoperto non essere altro che i manganelli fondamentalmente, perché in quasi tutti gli istituti sono considerate materiali vecchi, non omologati, molti risalenti anche agli anni 90 e naturalmente il numero esiguo. E con quali risorse? Guarda, sul tema risorse si è soffermato il responsabile del Dipartimento Forze dell'Ordine dei Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco, per il quale, affinché siano garantite le condizioni del detenuto, servono le risorse da stanziare su chi gestisce il rispetto delle regole, quindi gli agenti. Le risorse sarebbero quelle del PNRR, che vorrebbero destinare per ottenere ovviamente questi nuovi materiali, queste nuove attrezzature. E poi Prisco, tra l'altro, ha detto che anche la decisione di dar vita alle REMS non ha fatto altro che aggiungere carichi di lavoro enormi sul personale penitenziario, quindi sono state sostanzialmente una cattiva idea. Ma tra i numeri ci dicono anche che le carenze nelle carceri non sono solo fra agenti di polizia penitenziaria, ma anche e soprattutto nel personale amministrativo e sanitario, soprattutto psicologi. Ma tra l'altro vediamo anche cosa dicono le varie istanze di Fratelli d'Italia su questo tema. Per Daniela Caputo, che è dell'Associazione Funzionari di Polizia Penitenziaria, è necessario creare un dipartimento ad hoc dedicato alla polizia penitenziaria, anche per dare una risposta forte a livello formativo delle esigenze del corpo di polizia. Mentre per Raffaele Pellegrino, che è segretario nazionale del vicario del SINAPPE, quindi del sindacato di polizia penitenziaria, di fatto in Italia non esiste, secondo lui, una politica penitenziaria, e le carceri sono solo dei contenitori in cui non si dovrebbe consentire la commissione dei detenuti con disagi psichiatrici. E nelle sue conclusioni, il senatore Alberto Balboni, responsabile del Dipartimento di Sicurezza, Legalità e Immigrazione di Fratelli d'Italia, invece ha citato quelli che sono, secondo lui, tre principali problemi del mondo carcerario, quindi quello relativo alle risorse umane e strumentali, le risorse strutturali e poi la terza, secondo lui la più importante, la mancanza di regole. Cioè lui si chiede come si fa a mantenere la disciplina se chi la deve imporre ha perso autorità, quindi fa del problema delle regole un problema fondamentale di perdita dell'autorità da parte della polizia penitenziaria. Io chiedo a voi, cioè ovviamente si sta discutendo di questo, questa è l'opinione di Fratelli d'Italia, magari voi che ci ascoltate anche nella vita intramuraria o cittadinanza volete scriverci su questo, redazione liberidentro@gmail.com. Ma lanciamo una canzone mentre ci scrivete, Levante con Tiki Bom Bom, e ci rivediamo tra pochissimo. Ciao, tu animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom. Mei, tu anima indifesa, conti tutte le volte in cui ti sei arresa, stesa al filo teso delle altre opinioni, ti agiti nel vento di chi non ha emozioni. Mai più e meglio soli che accompagnati da anime senza sogni, pronte a portarti con sé, giù con sé, tiki bom bom bom. Laggiù tra cani e pazzi, figli di un dio minore pronti a colpirci per portarci giù con sé, giù con sé. No no no no no no, noi siamo luci di un'altra città, siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. No no no no no, noi siamo gli ultimi. Della classe, femminuccia vestito con quegli strass, prova a fare il maschio, ti prego insisto, fatti il segno della croce poi rinuncia a Mefisto. Ehi tu, anima in rivolta, questa vita di te non si è mai accorta, colta di sorpresa, troppo colta, troppo assorta, quella gonna è corta. E rieccovi, bentornati con Antonella, continuiamo con le notizie dal mondo internazionale. Siamo in Canada dove soffia vento di protesta, vero? Eh sì, soffia già da qualche giorno ormai questo vento, purtroppo, perché c'è stata, come tutti sapete, una protesta contro le restrizioni anti-Covid nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, che ha bloccato la capitale Ottawa e alcuni punti della frontiera con gli Stati Uniti. Le manifestazioni erano guidate dai camionisti che sono arrivati in città dopo aver guidato per tutto il paese per una settimana. All'inizio chiedevano di cancellare la norma che obbliga i camionisti non vaccinati che rientrano nel paese dagli Stati Uniti a mettersi in quarantena. Ma durante il viaggio verso Ottawa la protesta ha catalizzato un sentimento contro vaccini e restrizioni che è presente un po' in tutti i settori sociali. E quando nella folla poi sono spuntate svastiche e bandiere che inneggiavano Donald Trump, commentatori, politici, cittadini canadesi sono andati un po' nel pallone, sono andati nel panico, convinti di essere a un passo dal diventare come i loro vicini meridionali, cioè gli Stati Uniti. E in un articolo pubblicato su Internazionale, l'opinionista Robin Sears ha scritto, e ve lo leggo perché è interessante, sembra che in Canada qualcosa si sia spezzato. Negli ultimi tempi il paese, che ha sempre mostrato un certo compiacimento per i propri valori di civiltà e rispetto, è scomparso, sostituito da un altro che somiglia molto agli Stati Uniti. Se tempo fa mi avessero raccontato i manifestanti che lasciano le loro feci davanti alle porte degli abitanti di Ottawa, urinano sui marciapiedi in equilibrio sui loro camion o cercano di investire di proposito un poliziotto a cavallo, avrei risposto no, in Canada queste cose non succedono. È interessante quello che dici e mi fa pensare anche al fatto che sono fenomeni che non sono purtroppo circoscritti solo al Canada, penso anche ad altri paesi dove ci sono le manifestazioni contro le restrizioni da Covid, contro le vaccinazioni, no? Eh sì, Caterina, lo sappiamo bene anche noi in Italia in realtà. E comunque la protesta canadese sembra aver dato coraggio ai movimenti contro i vaccini e restrizioni in tanti altri paesi, in particolare Australia e Nuova Zelanda. E più di 5 anni dopo le elezioni del 2016, diciamo che le onde d'urto, le onde di ritorno del successo di Donald Trump sono ancora molto forti e ora stanno tornando indietro per colpire il suo successore alla Casa Bianca, cioè Biden. I camionisti hanno bloccato a lungo il ponte Ambassador, Caterina, che è uno dei più importanti snodi commerciali alla frontiera tra Stati Uniti e Canada, una situazione che danneggerà pesantemente l'economia dei due paesi. Pensa anche che in Michigan la General Motors ha già dovuto cancellare 2 turni di produzione. Ovviamente i repubblicani cavalcano un po' la situazione, anche un po' tutti i mezzi di informazione di destra, che colgono ogni occasione per mettere in difficoltà l'attuale presidente, e infatti hanno espresso solidarietà ai manifestanti canadesi e hanno criticato il primo ministro canadese Justin Trudeau. E trovo un po' incredibile questo ritorno in auge proprio di Trump, del trumpismo, no? Eh sì, però evidentemente non era che assopito un attimo forse. E il trumpismo ha aperto qualche crepa anche nell'amicizia tra Stati Uniti e Canada, che sembrava solidissima. Pensa che i due paesi condividono la frontiera terrestre più lunga del mondo, sono quasi 9.000 chilometri di frontiera. Il Canada compra più beni dagli Stati Uniti di Cina, Giappone e Regno Unito messi insieme. Le aziende canadesi negli Stati Uniti danno lavoro a 725.000 persone. Prima di Trump i due paesi avevano sempre cercato di andare d'accordo, anche quando le rispettive amministrazioni avevano linee politiche molto diverse. Ma questo ovviamente non vuol dire che i rapporti siano stati sempre idilliaci nel tempo. Infatti in passato i due paesi si sono scontrati varie volte, arrivando perfino a elaborare dei piani di invasione per invadersi a vicenda. E infatti l'animosità cominciò durante la guerra anglo-americana del 1812, quando i canadesi arrivarono a Washington e diedero fuoco alla Casa Bianca. Ed è proseguita a più riprese con una serie di screzi, generalmente dovuti allo sfruttamento delle risorse al confine, e alcuni di questi conflitti sono passati alla storia con dei nomi molto buffi, tipo la guerra dell'Italia Regna del 1838 e la guerra del maiale del 1859. E per restare in Canada, Caterina, ho scelto Alanis Morissette con Thank You, però non andate via, come al solito ricordiamoci che dopo c'è una bella intervista, l'intervista che Caterina ha fatto a Chiara Giannelli di Ne vale la pena, e che ci sarà tu per tutta la settimana. A dopo! E benvenuti di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori. Continuiamo la seconda parte del nostro programma con l'ospite di oggi. Lei è Chiara Giannelli della redazione Ne vale la pena. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao, ciao, ciao. È un onore averti qui perché parliamo di una redazione nata 10 anni fa all'interno del carcere della Dozza e quindi un settimanale digitale, il primo nato alla Dozza, quindi dietro le sbarre di un carcere. Ma ti chiedo subito, parto subito a bomba, ti chiedo come è nato questo progetto ormai 10 anni fa. Sì, l'esperienza è nata in questo modo. Nella mia associazione, che è il Poggeschi per il carcere, la prerogativa principale è quella di proporre attività laboratoriali, quindi attività di gruppo. Per noi è un valore, anche perché la nostra missione è quella di coinvolgere volontari giovani, quindi l'attività di gruppo è sicuramente l'ambito migliore per proporre attività. Fummo contattati dal responsabile, che tuttora ci segue, del portale di informazione sociale Bandiera Gialla, che ci chiese se ci interessava riempire una rubrica dentro il portale con informazioni dal carcere. Quindi fummo cercati, in un certo senso, ma cogliemmo la palla al balzo, nel senso che ci parve veramente un'ottima opportunità, sfidante, ma molto, molto, molto interessante. Quindi, nella collaborazione con Bandiera Gialla, all'inizio il responsabile Nicola Rabbi entrava anche lui, l'abbiamo proprio costruita pezzettino per pezzettino la prima parte dell'esperienza. E appunto abbiamo iniziato nel 2013, quindi diciamo il decennale lo festeggeremo poi l'anno prossimo. Sicuramente ci saremo, siamo sicuri che ci saremo. Ecco. Ma il pezzo grosso, oltre a Bandiera Gialla, questo portale di informazione sul sociale nell'area metropolitana di Bologna, per l'appunto, c'è anche l'associazione Il Poggeschi per il carcere, che è un'associazione di volontariato, di volontari per il carcere. Ma la cosa interessante allora è qual è la vostra mission, che cos'è che ha mosso tutto questo e se siete riusciti, quindi mi sembra evidente anche a perseguirla. Allora, intanto appunto la sezione dentro il portale abbiamo deciso che si sarebbe chiamata Ne vale la pena e così ci chiamiamo, quindi c'è la sezione nel portale Bandiera Gialla, in più c'è una pagina Facebook, quindi se volete andare a vedere, insomma, si pubblica anche in Facebook quello che viene prodotto dalla redazione. Beh, la mission, allora la mission intanto in tutto questo tempo via via l'abbiamo messa a fuoco, no? All'inizio era sicuramente la voglia di intercettare un bisogno che c'è, io già facevo volontariato prima, che è quello di scrivere, di esprimersi, ok? Quindi l'avevo già riscontrato nelle esperienze precedenti, quindi intercettiamo questo bisogno di espressione, di scrittura, e incanaliamolo in un ambito specifico che è quello di dell'informazione. Ecco, informazione giornalistica, caspita, era ambizioso, no? Perché poi non abbiamo delle professionalità, nessuno di noi è giornalista, Nicola Rabbi lo era, adesso nel nostro team è entrato anche Padre Marcello, il cappellano del carcere, che è giornalista, ma molti di noi, i volontari, non lo sono. Detto questo, però, l'ambizione era proprio questa, di incanalare il bisogno di scrittura in un ambito di informazione sul carcere e trovare il livello giusto per dare informazione sul carcere, quindi evitando le enfatizzazioni, i vittimismi, le personalizzazioni. Ecco, come ho detto, via via la mission si è messa a fuoco, ecco, quindi inizialmente era in un modo e poi... Ho una curiosità, il nome ne vale la pena, punto esclamativo, perché come, chi l'ha dato? Chi ha avuto questa idea geniale? Perché poi c'è questo gioco di parole che è meraviglioso. Posso dirti, banalissimo, fra le prime volontarie di Ne vale la pena c'era una Vale. Valentina, Vale. Piccolo brainstorming e quindi, allora... Valentina, Vale, quindi e poi abbiamo collegato appunto al discorso ne vale la pena, nel senso che è una pena per cui vale adoperarsi, ecco, è una pena per cui vale spendersi, perché magari anche l'attività ci chiede abnegazione, sacrificio, però ne vale la pena, ecco, perché eravamo rimasti poi affascinati dalla proposta e via via dal mettere a fuoco la mission, come si diceva prima. Allora, quindi... domanda un po' tendenziosa, ad oggi, dopo il Covid-19, sono passati allora quasi 10 anni, il prossimo anno festeggiate l'anniversario della vostra iniziativa, ne è valsa la pena? Come sono cambiate le cose dopo questo Covid-19 per voi? Allora, ne è valsa la pena? Tantissimo, non avremmo mai pensato di poter dare così a lungo continuità a un'attività. Certo, da febbraio 2020 è cambiato tutto, ma tutto davvero, poi magari se c'è occasione dopo ne parliamo, per noi l'attività in presenza è il cuore appunto del lavoro di redazione. Quindi abbiamo dovuto reinventarci e sicuramente quello che siamo riusciti ad ottenere è un po' un surrogato di quello che noi riteniamo la vera attività di redazione. Certo, allora, Padre Marcello che è potuto entrare più di noi è sempre stato un po' il tramite, poi le mail, il servizio mail, l'aver partecipato al progetto Eduradio, no? Quindi potendo anche simulare un'attività di redazione nelle puntate, recuperando anche tutto il nostro archivio, perché abbiamo un archivio abbastanza ricco, quindi continuare a dar voce al dentro... In questo modo sicuramente, però faticoso, molto faticoso. Noi eravamo già rientrati, quindi dopo uno stacco di più di un anno e mezzo, eravamo rientrati ad ottobre 21, ma siamo di nuovo fuori. Quindi speranzosissimi, visto come sta andando, che tutto si risolva, ma siamo di nuovo interrotti da prima di Natale. Quindi ecco, abbiamo questi contatti sporadici e difficoltosi, devo dire. Quindi intanto noi ci rivediamo domani, ma invitiamo la cittadinanza a guardare la pagina Facebook di Ne vale la pena, il sito su Bandiera Gialla, ci sono tutti gli articoli pubblicati da parte delle persone detenute, e ci rivediamo domani, ci racconti la vostra redazione, la vostra modalità di scrittura. Grazie Chiara, una pausa musicale e ci vediamo. Ciao a tutti. Fine puntata. Ciao. siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Dopo aver ascoltato l'ospite di oggi, Chiara Giannelli della redazione di Ne Vale la Pena, che forse molti di voi alla Dozza di Bologna conoscono, e seguirà la rubrica Dialoghi sulla cittadinanza con l'intervista a Laura Fabbri e Pietro Corazza, che hanno ideato il progetto Identità in Movimento presso il quartiere Cirenaica di Bologna, con ragazzi migranti proprio appartenenti al quartiere Cirenaica. E scriveteci redazione Leveridentro @gmail.com e come sempre ci rivediamo domani, ma vi salutiamo tantissimo io che sono Caterina, Antonella Cortesa, Nea Flacco, Diana Bota e Paolo Aleotti. Grazie, a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.